Ciao a tutti, buongiorno, buonasera. Questa volta voglio parlare di questo confronto dell'Europa e l'Est. A volte pensiamo che liberare un terruño, una terra del giugo di un dittatore. E questo è il detto della Russia, non della Russia, sino del signore Vladimir Putin. Ma dopo il tempo e la morte di innocenti, di gente innocente, di bambini, di donne, di uomini, non rendiamo conto che all'inversa. E questi bambini, queste donne, questa gente non ritorna più. E quelli dolienti, volete prendere conto? Ma a chi le prende conto? Alla lideranza della Russia, che alla fine va a rendere conto. E io credo che lo sa perfettamente. O lo deve sapere. Perché deve pagare alla fine. E questa guerra deve finire pronto. E io non credo che scali a una situazione più grande, come forse los medios volere. Ascolto, non parlo senza trash. Quello medie, non tutte le medie, ma molte le medie, vuole la nota. Vuole fare il show, vuole mandare al corrispondente alla zona di guerra, ma io non credo che scali una cosa più difficile, perché sarebbe la distruzione del mondo. Milioni e milioni e milioni di gente moririano all'improvviso. E questa guerra non la vinceranno nessuno. Di maniera che io credo che questo conflitto deve finire pronto. Ma nessuno di quello che confronti, nessuno deve mettere più fuoco al fuoco. Prima che tutto la Russia deve lasciare l'Ucraina, ma anche gli Stati Uniti e l'OTAN. Non devi soddisfare questa guerra portando supporto all'Ucraina, non perché la gente vuole che l'Ucraina rimani sotto il giugo della Russia, no, non per questo, sino perché questo confronto deve finire. E nessuna della parte deve instigare questo confronto. De maniera che instiamo alla Russia a lasciare questo confronto, abbandonare l'Ucraina. Instiamo a Vladimir Putin, instiamo agli eserciti della Russia. Abbandonare, perché forse non è Vladimir Putin. Che acconteserebbe se l'esercito della Russia diceva: non voglio sopportare questo massacro a gente innocente? Che pensiamo che Vladimir Putin andrebbe con pistola in mano a esecutare a tutte le eserciti russi. Io non credo. Tutti instiamo agli eserciti russi a rivelare in contra desta guerra. Abbandonare il campo di battaglia? Ma lo mismo alla Ucraina, non stare più a ricevere più aiuto d'Occidente. E in adelante, io credo che Vladimir Putin sa che non possiate abbandonare la Russia, perché fuori di questo il doliente intenteranno cobrare. I dolenti andranno a intentare cobrare la vita di tutta la gente innocente che ha perduto la vita debito a questa invasione. Va bene, grazie a tutti, a dopo. Il cavaliere.